Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Si andrà a votare a breve, secondo lei? Io penso di no, ma lo sottopongo ad una condizione, cioè non si andrà a votare se il governo dimostrerà di essere utile all'Italia. Se imbocchiamo la strada delle riforme, poi diventa tutto più semplice. Se invece si affossa anche questa possibilità di riforme, beh, allora diventa davvero delicato immaginare che ci sia uno spazio di speranza per questa legislatura. L'economia reale nel nostro paese è in una situazione drammatica, quindi o ci si cambia il passo con il governo esistente o a un certo punto allora andiamo a votare. Il presidente quindi è ingeneroso in questo giudizio. Spero che Confindustria, per esempio, colga quello che è successo in questi tre giorni e dia dei giudizi che siano dei giudizi anche di fiducia nel paese e non soltanto di disfattismo. Il disfattismo di cui parla Letta? No, non c'è nessun disfattismo. Grazie. Onorevole Andrea Romano, capogruppo di Scelta Civica alla Camera, buongiorno. Buongiorno a voi. Anche lei qualche giorno fa ha detto: Letta batta un colpo, perché se no non si può andare avanti. L'ha battuto il colpo? Ma l'ha battuto, io non ho dubbi sull'impegno di Enrico Letta, che insomma fa davvero un lavoro estremamente intenso, sì, in giro per il mondo eccetera. Il problema non è Enrico Letta, il problema è che il governo è praticamente fermo, ma è fermo per ragioni politiche, perché è nato in quella che sembra una lontana era geologica, no? C'era ancora Berlusconi capo del PDL, Epifani capo del PD, è una situazione paradossale. Complicata, abbiamo... ecco, onorevole Romano. Però abbiamo sentito, tra Squinzi, presidente della Confindustria, e Letta, sono volate parole durissime. Sì. È uno scontro mai visto, così duro. Beh, il mondo produttivo, lo sappiamo bene, soffre in modo particolare la crisi. Non credo che in Squinzi ci sia l'intenzione di fare il disfattista. D'altra parte, Letta fa bene a difendersi, ma il punto non è Squinzi contro D'accordo, Letta. D'accordo, però Letta dice... Nel 2015 cresceremo del 2%. La Banca d'Italia nel bollettino di gennaio dice: siamo fermi. Ha torto la Banca d'Italia? Siamo alla guerra delle cifre? No, credo che purtroppo la Banca d'Italia abbia ragione. Il Premier fa bene a mandare segnali di ottimismo, ma il Paese sta soffrendo. E la domanda è: il governo cosa fa perché questa sofferenza, come dire, si accorci? Quindi è un governo che garantisce in qualche modo di più l'immobilità che non la stabilità. Ma c'è questo rischio, c'è un rischio di immobilismo. Allora, il punto politico che io vedo riguarda il Partito Democratico. Naturale, ci arriviamo. Non può decidere, come dire, di fare il partito di opposizione nel mentre che è il principale partito di questo Parlamento. Scelga un po' cosa fare. Ecco, però, un governo del tirare a campare, com'è in qualche modo quello di Letta, adesso vuole rifare la squadra. Vuole rifare la squadra con dentro gli anziani, siamo alla terza ripartenza. Renzi dice no, voglio fatti, non posti. Quindi non si passa sulla strada del reimpasto, chiamalo come vuoi, ripartenza, patto di governo, non si passa. Guardi, è una situazione paradossale, è un governo che deve essere rilanciato da mesi e al rimpasto o non rimpasto questo rilancio non c'è. Il Presidente del Consiglio manda messaggi di ottimismo, ma il principale partito di maggioranza non si impegna in questo rilancio. Ecco, quindi... però, onorevole Romano, io le dico una cosa semplice, una domanda semplice. Sì. Renzi ha vinto le primarie, è il segretario del PD. È legittimato più di tutti. Non sarebbe normale che fosse lui a fare il Premier e tutti i nodi si scioglierebbero come d'incanto? Io penso che se il PD si vuole prendere fino in fondo la responsabilità di governo, questo deve anche implicare l'ipotesi che Renzi diventi Presidente del Consiglio, perché così non possiamo andare avanti. Allora, se la condizione perché il PD si prenda questa responsabilità è Renzi a Palazzo Chigi, io credo che questa ipotesi debba essere verificata, perché sicuramente così non possiamo andare avanti. D'altra parte, vi faccio dire, Renzi va anche un po' messo alla prova del budino, no? Per ora ha scardinato la sinistra conservatrice, ha fatto bene, da domani deve dimostrare di sapere gestire il Paese anche in condizioni difficili. Quindi lei dice, per Scelta Civica, il governo Renzi deve partire, il governo Letta ha finito la sua traiettoria di traghettamento. No, questa è l'opinione di Andrea Romano, Scelta Civica ne discuterà come partito nelle sedi opportune. Io faccio una riflessione da parlamentare guardando al lavoro del governo e al lavoro che il Parlamento sta facendo e auspico che il governo riparta e rilanci. Se per questo rilancio la condizione è che il PD si impegni davvero, cosa che finora non ha fatta, il PD si impegni con il suo uomo più, come dire, significativo. Sì, ma quindi, insomma, per capirci bene, lei dice ci vuole un governo Renzi. No, ci vuole certamente un governo che abbia il Partito Democratico che lo sostenga fino in fondo. Se questo vuol dire governo Renzi, che governo Renzi. Renzi ha detto che lui il rimpasto non lo fa, quindi resta solo l'opzione del governo Renzi. E allora partiamo con questa opzione. L'importante è girare pagina, perché certamente così non possiamo andare avanti. E non il mio timore è che il governo non arrivi al 2015, perché non si può far finta di niente. Allora, tra l'altro, aggiungo una cosa: bisogna fare molte riforme istituzionali, economiche. Queste riforme prevedono un piano almeno di 2 anni, non è questione di pochi mesi. Cosa facciamo? Andiamo avanti così, tirando a campare per settimana dopo settimana? Le riforme istituzionali, il cambio del Senato, ma parliamo delle riforme economiche, la riduzione del carico fiscale sul lavoro, il mercato del lavoro. Servono almeno 2 anni. Questi 2 anni devono vedere un governo nel pieno delle sue facoltà. E lei dice che questo governo non può che essere il governo Renzi. No, lei... dico che non può che essere il governo Renzi, sembra che non può che essere un governo che abbia il PD che lo sostenga. Mi sembra che siamo arrivati a una situazione in cui il PD non sostiene il governo Letta e Letta, pur con tutto il suo impegno, non ci riesce. Le dispiace se io traggo la conclusione di quello che dice lei. Lei dice sostanzialmente ci vuole il governo Renzi, perché se no non si va avanti. Lei pensa che è così, no? Mi pare, no? Perché guarda, io non interpreto. Non sarei contrario a questa ipotesi se servisse a rilanciare il governo. Lei pensa che il Quirinale potrebbe promuovere questo passaggio? Non mi azzardo a interpretare l'intenzione del Quirinale, penso che bisogna avere il massimo rispetto. Io ho sempre letto, però, nelle parole di Napolitano il richiamo ad una stabilità che vuol dire riforme da fare. Questa è la cosa principale. Siccome queste riforme vanno fatte, io credo, mi azzardo in questa ipotesi, non credo che Napolitano vedrebbe di malocchio un governo pienamente sostenuto dal PD. Perfetto. C'è Mario Secchi che vorrebbe fare una domanda prima di chiudere. La nuova legge elettorale, d'altronde come la vecchia, obbligherà a fare delle coalizioni. Sì. Con chi andate? Beh, certamente non andremo con Berlusconi se Berlusconi sarà il capo del centrodestra. Se Renzi, e aggiungo se, si dimostrerà un leader capace di offrire al Paese un progetto veramente innovativo, potremo valutare di sostenerlo. Certamente non sosterremo ipotesi di sinistra nuovamente conservatrice come quella che è stata fino all'altro giorno. Quindi l'onere della prova tocca a Matteo Renzi. No, quindi Renzi avrà un alleato in più. No, Renzi avrà un alleato in più se si dimostrerà un leader innovativo. Questo lo dobbiamo vedere. Vabbè, e per vederlo bisogna vederlo alla prova dei fatti, esatto. Cioè al governo. E infatti, quindi se lei dovesse fare un titolo, direbbe... Romano, 2 punti, Renzi al governo. Perché no? Grazie a lei. 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Venerdì iniziano i giochi invernali a Sochi. Hanno già inanellato un record dopo l'altro, che però non c'entra con la sfida sportiva. Sono le Olimpiadi più costose della storia, 50 bilioni di dollari, le più blindate, con 40.000 truppe disposte intorno a Sochi a formare un anello d'acciaio. A Vancouver le forze dispiegate erano 6.000, niente in confronto. Un podio, l'inno nazionale, la bandiera. È la liturgia magica delle Olimpiadi moderne. Uno spettacolo che si rinnova da più di un secolo, ogni 4 anni, e che fa trepidare i cuori non solo degli sportivi, in ogni angolo del mondo. Lo sanno bene gli atleti, che quel podio lo sognano per tutta la vita, a coronamento dei loro sacrifici e del talento. Ma l'hanno capito soprattutto i padroni del mondo, che sull'orgoglio nazionale hanno costruito molte delle loro fortune, riuscendo con grande abilità ad incanalare lo sport sui binari della politica. A Melbourne nel 1956 la geopolitica fece il suo ingresso ancor prima della cerimonia di inaugurazione. Colpa della crisi di Suez, ma ancor di più dei carri armati sovietici che erano entrati a Budapest per reprimere nel sangue la rivolta ungherese. Alle Olimpiadi del 1968 le polemiche si scatenano prima ancora dell'inizio dei giochi, per colpa dei granaderos della polizia messicana che sparano all'impazzata su una manifestazione di piazza uccidendo centinaia di studenti. 4 anni dopo, un comando palestinese colpisce al cuore le Olimpiadi di Monaco, macchiandole di sangue israeliano, l'effetto più aberrante del connubio tra sport e politica. Alle Olimpiadi del 1980 vede presenti solo 80 delegazioni. Mancano gli Stati Uniti e con loro Cina, Giappone, Canada e Germania occidentale. In totale 60 nazioni unite in un clamoroso boicottaggio per protestare contro l'invasione sovietica dell'Afghanistan. The Olympic Games of Los Angeles.

ha un po' di timori sulla riuscita delle Olimpiadi di Sochi, ma sì o no? Guardi, le devo dire, ho gli stessi timori di quando ero vicino a Boston e c'era la maratona di Boston ed è arrivata la bomba. Ma lì non se l'aspettava, qui sappiamo che ci sono tutte le premesse per un problema. Quel timore me lo sono portato anche a Londra, dove di premesse c'erano state tante, ma questo non c'è, a mio modesto avviso, posto del mondo che può essere esente da questa tragedia. Ma quindi vale ancora la pena di farle le Olimpiadi, malgrado tutto questo, o no? Un'ultima domanda. Guardi, c'è stato un articolo della Nazione titolato "Non ne vale la pena". E dico benissimo, cosa ci guadagna l'umanità a perdere anche questo lembo di mondo? Lei pensi al villaggio olimpico, dove c'è l'Affegano, certo, che fa la fila col professionista americano dell'NBA. Pensi alla cerimonia inaugurale, 204 bandiere, tutte lì, tutti insieme, in pace. Vabbè, e quindi speriamo che vada bene. Chiudo dicendo, guarda, questo fervore quasi pindarico mio, però non è un fatto solo personale. Ricordiamoci che l'ONU, nel riconoscimento non della kermesse che... No, ma d'accordo, tutti vorremmo che andasse tutto bene, ha riconosciuto il CIO il posto di osservatore permanente all'ONU. Evelina Cristillina ha organizzato le Olimpiadi Invernali di Torino con grande successo. Ecco, vale ancora la pena fare le Olimpiadi se ogni volta ci sono problemi planetari come sono scoppiati in Russia? Intanto buongiorno. Sì, certo che in effetti che si parli di Olimpiadi soltanto per questioni di sicurezza, di diritti umani, di omofobia, di paura degli atleti di gareggiare, fa passare in secondo piano quello che dovrebbe essere il core business, lasciatemi dire, di un'Olimpiade, cioè lo sport e gli atleti. Sembriamo tornati un pochino alla guerra fredda, mi pare, come atmosfera. Ma in effetti sono abbastanza vecchia da ricordarmi le Olimpiadi di Mosca e quelle di Los Angeles, dove addirittura ci fu un boicottaggio. Quindi, come dire, è stata una scommessa che il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, ha voluto vincere a tutti i costi, dando le Olimpiadi a Sochi. Sappiamo tutti quanto Putin le volesse. Sì. Oltretutto c'è anche una questione di clima che mi preoccupa da ex atleta. Sul mare, si è visto anche a Vancouver. Tre quarti delle gare hanno dovuto essere spostate perché pioveva. Certo. Ma per Torino, invece, che lei ha organizzato con grande successo, che cosa hanno significato i giochi invernali? Per Torino è stato tutto sommato molto più semplice. Intanto avevamo le montagne, anche se uno dice Torino è una grande città, montagne a 2000 metri con grande neve. Poi era una città che in qualche modo doveva reinventarsi un futuro. Non dico che solo le Olimpiadi lo rappresentassero, però l'hanno aiutato. Però l'hanno aiutata, quindi c'è stata una botta di visibilità enorme, dei soldi che sono arrivati. C'è stata una ricaduta permanente. Esattamente. Sì. 8 anni dopo si può vedere che Torino... lei lo sa bene perché certo, il torinese ci viene, insomma, sia per la parte culturale, sia per la parte turistica, sia per la parte dei servizi. Ha rilanciato. È una città... Ecco, un'ultima cosa. Putin ha speso, si dice, 50 milioni di dollari per fare queste Olimpiadi. Ecco, Torino che budget aveva? 5 miliardi di euro. E le dirò di più, abbiamo avanzato anche qualcosa, tant'è che adesso... con una parte dei fondi olimpici infrastrutturali, diciamo quelli spesi per le costruzioni, si parla di rimettere a posto un pezzo di Torino Esposizione, quindi 5 miliardi contro 50, che ne dice? Non male, complimenti, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Ecco Pietrangelo, tu pensi che Putin davvero si giochi la sua leadership mondiale con i giochi di Sochi? Io la farei semplice. Il nemico della Russia è il terrorismo ed è lo stesso nemico dell'Occidente, il terrorismo. Purtroppo non tutti desiderano che le cose vadano bene in questo appuntamento, perché è l'appuntamento dove Putin può perdere tutto. Basterebbe innescare questa spirale pericolosissima, perché i tanti soldi spesi per motivi di sicurezza. Il grande business che dall'11 settembre in poi ha alimentato il mondo è quello della deve sicurezza. Essere riconosciuto anche in quell'altra parte di mondo. Perché tutte le questioni noi le viviamo nell'amplificazione di un chiacchiericcio che tanto ci piace. La questione degli omosessuali è secondaria rispetto a quella situazione che geopolitica... Ha dato delle regole Putin. ha dato, no, no, ma la vera, cioè noi ce la raccontiamo così perché ovviamente siamo affascinati ad un argomento perfetto per i talk, per le anime belle, ma lì c'è la sostanza di far sopravvivere la popolazione rispetto a un problema di terrorismo che è pesante. Lì ci sono intere aree geografiche che sono il doppio del perimetro italiano, dove il problema è secolare, affonda nelle radici dell'impero russo e si ripresenta di volta in volta. E dobbiamo ricordare, con i libri di storia alla mano, che nel periodo sovietico queste vicende vennero concluse attraverso deportazione di interi popoli. E quindi? Quindi è quantomeno maligno l'atteggiamento di chi sta lì ad aspettare l'incidente. Cioè, Mario, purtroppo risulta che movimenti dei servizi segreti occidentali stiano agevolando i terroristi in Russia. Dopo la pubblicità torniamo in diretta per parlare di cosa bolle in pentola con Mario Secchi. La notizia in 3D è stata come sempre curata da Sara Tardelli. Pubblicità. Mix 24. L'amore è mascalzone, viaggia contromano, parcheggia sempre dove vuole, fa vedere la lingua, parla con la bocca piena, si presenta così senza un invito, proprio in mezzo alla cena. Come sono contento. Cosa stiamo aspettando? Eccomi. Ci siamo, De Gregori? De Gregori. E siccome di solito uno inventa delle spiegazioni, le trova, l'interpretazione, si affida ad Hermes affinché tutto possa essere svelato, no, la canzone è una canzone, un po' come la rosa è una rosa. E siccome nelle lettere che fanno la parola rosa si trova perfino la stessa rosa, nella canzone si trova la grandezza di De Gregori. Mario, forte il nostro Pietrangelo, è fortissimo. Sempre filosofo. Sempre, mamma mia, sempre morbido, una cosa in più. Abbiamo armonico. Imparato. Senti, e le tue pentole cosa bolle? Senti, Mago Merlino. Allora, Giovanni, io stamattina sì. No, sono Mino pazzo che fa cose pazze e cammina sopra i tetti la mattina. Sbirulino. Ma alla Corte dei Conti c'è Sbirulino. Io ho pensato questo quando ho letto che i magistrati contabili aprono un'azione contro Standard & Poor's perché nei suoi rating non ha valutato, udite udite, il patrimonio artistico, il patrimonio culturale, la Divina Commedia, i film di Fellini, io ho pensato, ma è uno scherzo. E invece no, pare sia vero. La causa addirittura verrà pure portata avanti e discussa. E insomma, è incredibile. A questo punto, perché non metterci dentro anche pizza, mandolino, sole, beh, scusa, mare? Sono i nostri beni, sono certo, i nostri beni. Ma non sono valutabili negli asset della contabilità dello Stato, ma in questo momento. Ma dai, bisogna essere creativi. Vabbè, baldon così. Salamino, ecco il salamino. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervenendo a Strasburgo, rievocando la figura di Altiero Spinelli, nonché genitore di Barbara Spinelli, ha usato una frase su cui immediatamente lui si è fermato, l'ha spiegata e ha scatenato una battuta, perché rievocando Altiero Spinelli ha detto «è sceso in campo», dopodiché si è fermato e ha detto che l'espressione è malfamata, ma forse non ha capito che l'espressione famosa del certo, cavaliere certo. È che il cavaliere è comunque un sincero democratico, e siccome l'Italia repubblicana nata nell'antifascismo deve comunque essere riconoscente ai malfamati, perché se non ci fosse stata la mafia, col cavolo che gli americani entravano in Sicilia, gli dedicherei questa canzone. 'Ndrangheta, camorra e mafia, è società organizzata, Rangta Camurra. Ma chi è questo? Ma questa la cantava Otello Profazio. Otello Profazio. Sono canzoni famosissime. Devo dire, stiamo tirando fuori il meglio. La storia dei tre cavalieri. Se ci ascolta Saviano, succede che dobbiamo... poi scrive di nuovo. Giovanni, a proposito dei cavalieri, mi è venuta in mente la cosa del Cavaliere Nero di Proietti. Bisogna che invitiamo Proietti un giorno in trasmissione. Certo, ha scritto un libro. È fantastico. A proposito di cose divertenti e allegre, facciamo fare a lui la puntata. Esatto, dei rating e così via. Non credo che tu starai zitto e neanche noi, però sentiamo ancora cose di rating. Senti. Oi, Puerto Rico. Ma tu lo sai che a Puerto Rico, insomma, l'isola ha avuto un declassamento piuttosto grosso da parte di Standard & Poor's. Aspettiamo che gli facciano causa, perché Puerto Rico c'è il mare, c'è il sole, ci si sta bene, però Puerto Rico c'ha anche 3.7 trilioni di bond municipali emessi. Sai quanti sono gli abitanti di Puerto quanti? Rico? 3.6 milioni. Cioè, uno per uno. Capisci che non si possono poi arrabbiare. Il governatore García Padilla, 42 anni, ha molto da fare e deve forse rivolgersi ai santi. Siamo tutti devoti notte! Cittadine! Tutti devoti notte! Bello questo collegamento, eh? Sentite in diretta l'atmosfera di Catania. Oggi il culmine della festa in onore di Sant'Agata, che è sacra ancor prima che santa. Sacra ancor prima è che santa. È la terza processione al mondo. Faccio io una. Siamo i primi. Cioè? Eh sì, perché è la processione più imponente che c'è in Italia. Figurati che cosa si può immaginare. Ma sono più di Palermo. E poi c'è anche un fatto, sai? Che Sant'Agata prima era patrona di Palermo. L'hanno traslocata. No, diciamo che sono le sante vergini che si vogliono bene e si sono affidate al territorio. Sono divise il territorio. Ecco, quella è una formula geopolitica che funziona. Questa canaglia che ho di fronte, ha scritto un bellissimo articolo sull'Osservatore Romano su Sant'Agata. Quando ho visto la sua firma sull'Osservatore Romano, non c'è più religione. Ho riso, ho detto: Papa Francesco ha fatto il miracolo. Direttore del Foglio si è suicidato. Però Vianna ha fatto bene a pubblicarlo, perché era fantastico. Ma dico, il merito è tutto di Santa Ituzza. Auguri a tutti gli agatini e alle agate, e soprattutto la protezione di Sant'Agata. Basta, invoco Fracchia. La busta paga che ho qua, ma non è, come aspettavo, come leggera, come una piuma, come una mela. È la paghetta del giorno, caro Giovanni. Ogni tanto sai che io do i numeri su queste cose. È quella di Eric Schmidt, presidente di Google. Cioè, gli stipendi dei manager, tu proprio li hai nel mirino. Sono una cosa meravigliosa. Per il 2013 il ragazzo si è fatto assegnare 100 milioni di dollari di stock option, così è giusto perché gli serviva il cash per pagare il panificio, 6 milioni di dollari di cash. Mi sembra ottimo. No, bel lavoro. Per un uomo son l'età della pienezza della sua maturità, mentre noi donne, chi lo sa per qual ragione, a 28 anni già ci chiamano tardone. Chissà perché, se il mal di testa viene a me. Ma devo evocare ancora Buttafuoco. Dica, cosa pensi tu delle donne? Ho scritto un libro, Femmine, edizione Mondadori. Me lo ricordo, ecco, abbiamo scelto la copertina assieme. Faccio un autospot quella copertina, ragazzi, te la ricordi? Con quel, ma tu sai come abbiamo scelto la foto della copertina di Buttafuoco? I suoi libri. Vabbè, oggi lo sto un po'. È marketing lo per lui. Là ci sono le corazzate. No. Vabbè, comunque, ti racconto questa. Allora, io stavo a Panorama, Buttafuoco era inviato, io facevo il vice direttore. A un certo punto piomba nella mia stanza con due foto. Una era una foto anonima, non mi piaceva tanto, l'altra erano Letizia Ortiz e la signora Carla Bruni, viste da dietro mentre salivano le scale. Salgono le scale. E lui mi fa: quale scegliamo per la copertina del libro? Voglio dire, era veramente come andare con un barattolone di miele dall'orsetto. E gli faccio questa. E lui, va bene. Gli faccio, ma Mondadori, la pubblica, sì, sì, tranquillo, la pubblica. Ed è andata così, in effetti. E il libro è? Femmine. Quindi, perché le donne? Perché stiamo discutendo di questo? Perché Milva? Perché, cari miei amici, occhio, perché alla fine ti fanno sempre causa. Ora, JP Morgan ha patteggiato 1,5, diciamo, milioni di dollari con 16 dipendenti donne che lavorano al call center. L'accusa, ambiente lavorativo ostile. Ora, io vi dico, Tardelli, Sara Tardelli, scusate, è una cosa tra me e lei, ma la dobbiamo fare. Dimmi, Mario. Sara. Io ti ho sempre voluto bene. Certo. Ti amo. Cosa lo mi sai, dici tutte sono le mattine? Tuo amico. Sono cosa tuo amico. Cosa mi dici? Sì, lo so che tutte le mattine ti dico Tardelli, ti odio. Esatto. Però ti chiedo pubblicamente perdono. Paura, In realtà è perché ti hai voglio paura bene. Di pagare, no, sì. Ma ti voglio bene. Sono tuo amico. No, comunque ti prego. Parto per l'America. Qua non c'è abbastanza ciccia per avere un risarcimento così domani prendo l'aereo. Cioè, capisci? Trattato pure da straccione che non ha capacità di risarcimento. Il massimo. Qui siamo decaduti. Si proprio. Sappia ufficialmente che io e la Tardelli abbiamo fatto pace. Va e lei bene. Non può farmi causa. c'è un film? Sì. Com'è il conteggio? Più 9. No. Più 11. No. Più 9. L'ha già detto Jill. Insomma, per favore. Abbiamo visto 66 carte uscire dal mazzo. 23 erano carte alte con valore meno 1. 17 erano neutre senza nessun valore. E il resto erano carte basse di valore più 1. Come fate a perdere il conteggio? Più 13. Vai. Il conteggio. Allora, il film era 21. Grande gioco di poker. Perché? Perché c'è la classifica di chi perde più al gioco. Ve la do al volo. Australia, Singapore, Finlandia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Italia, Irlanda, Norvegia e Canada. Ogni italiano perde circa 400 dollari all'anno. Il totale delle perdite è di 23,9 miliardi di dollari. Enrico dalla Grecia ci scrive che allora la Grecia con il Partenone, Socrate e Platone è a posto con tutto. Certo, bravissimo Enrico. Questo è il punto della faccenda. E mi dispiace, ma la Corte dei Conti non ha capito niente. Canzoniere, scusa. Questa volta, dunque, il quiz è proprio facile, facile. Oltretutto, evitate di googolare. Non leggerò io, ma mi affiderò alla voce per eccellenza, che non è certamente quel Benigni, quelle cose lì, ma la voce delle voci, Carmelo Bene. Dovete indovinare... Strano. Come strano. Dovete indovinare dalla voce di Carmelo Bene di chi si tratta e qual è il testo. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS per la risposta, via. Se io fossi balbuziente come Dante o Petrarca, accendere l'anima per una sola, ordinarle coi versi distruggersi in cenere. Mix 24. Se io fossi balbuziente come Dante o Petrarca, accendere l'anima per una sola, ordinarle coi versi distruggersi in cenere. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Chi vince riceve in premio il libro con da cui è tratto questo brano. Esatto. Ci sono telefonate, è una domanda praticamente irrisolvibile, soltanto Pietrangelo, diamo 10 secondi di tempo. È facile. Sei cattivo. Vabbè, vediamo Simonelli intanto. Professor Perché Simonelli, non possono buongiorno. Googolare su questo. Certo, li hai fregati. Professor Simonelli, buongiorno, lei ha la risposta immagino, no? No, perché non ho sentito. Professore, lei c'ha sempre una scusa. No, ho sentito la voce di Carmelo bene, ma... ecco, va bene, fin... siamo arrivati fin lì, d'accordo. Sì, allora, professore, arrivo... ieri dove era sto canone? Allora, per la gioia di Buttafuoco era in Sicilia ieri sera il canone, tutta Sicilia. A Sant'Agata? Perché, no, era su Sky Classica HD. No, ha corrotto pure Simonelli. No, no, sì. No, ma è qualcosa di incredibile. No, è diabolico. Buttafuoco. Sai che c'è anche per lei. Anche lei era un pezzo anche di canone. Io un pezzo di canone? Impossibile. Sì, a Torino mai. Sì, mai. Un pezzo di canone. Perché tu Next aveva una partecipazione, vero? Sì. Molto ironica. Sì. Di ironia economica, o di sì, economia ironica. Economia ironica, una nuova categoria. Invece prima, in prima serata era in Sicilia perché Classica ha trasmesso, registrata, un'opera di Richard Strauss con la regia di Emma Dante dal Massimo di Palermo. Ah, professore, scusi se la interrompo, ma ha letto quella meravigliosa recensione che ha fatto Paolo Isotta su questa regia di Emma Dante? Sì. C'è una frase bellissima. Dimmi, dimmi. Dice, io già immaginavo facesse una disgrazia. Ha fatto una mezza disgrazia, signore, vi ringrazio. Devo dire che neanch'io sono un fan scatenato di Emma Dante. Come dai, però. Ma io sì, invece. Io sono un fan. Sei buono. No, e Benigni, sono un fan. Emma Dante. Emma Dante, no, Benigni. E di questo passo pure Fabio Fazio. No. E Fabio Folo. Però l'importante è che la televisione si dedichi al teatro, facendo anche delle opere integrali, non solo di discorsi sul teatro, ma delle rappresentazioni. Ma poi il canone era anche su Rai Movie, perché andava in onda i 100 passi. E allora mi sono chiesto, riferendomi alla sera precedente, cos'è che manca oggi alla fiction italiana, anche quando, come nel caso dell'assalto di Ricky Tognazzi, insomma, ha buone intenzioni, buoni sentimenti, una realizzazione corretta. Rivedendo i 100 passi ho capito che cosa manca. Mancano due cose. Uno, manca l'indignazione. Il film di Ricky Tognazzi aveva molti pregi, ma mancava quell'indignazione che era propria invece del cinema civile italiana e che Giordana nei 100 passi ripropone benissimo. E poi manca un'altra cosa. Manca la voglia di scoprire cose nuove. I 100 passi ha soprattutto questo merito, tira fuori una storia che era stata completamente dimenticata perché coincidente con un fatto molto più di impatto molto più forte, che era stata la morte di Aldo Moro. E quindi certo, la morte di Peppino Impastato era arrivata nel silenzio, tant'è vero che solo nel 97 poi la giustizia... Vabbè, insomma, questo Giovanni, questo... abbiamo il vincitore. A parte, vabbè, Sabrina che ha confuso Mastroianni con Bene, però insomma può capitare nella vita, comunque ha vinto con un messaggino, ci è arrivato Giacomo Monari. Grande. Ha amato me stesso, giusto. Vladimir Majakovskij. Bravo Giacomo, hai visto, professore? Invece poi, mi sentite? Sì. Certo. Allora poi più tardi invece è successa un'altra cosa. Dica. Che mentre Secchi aveva un pezzo di canone su Rai 2, su Rai 1 Vespa ha fatto un'altra delle sue serate dedicate ai 60 anni della Rai. Un bel salottino affollatissimo ieri sera. Però ancora una volta né Baudo né Minoli. No. Come facciamo? Bene, bene, meglio così, non c'è problema. Che Arbore c'era? Arbore, sì, no, Arbore, no. Forse era in America. No, no. È in America, certo. No. Swing. Dunque, professore, swing. Grazie. Su Sky 1 il mercoledì sera va in onda Il Mentalista, un programma di esperimenti mentali, di letture del pensiero, di prove fisiche estreme. Sara Tardelli ha intervistato Francesco Tesei. Quanta parte di magia e quanta invece di psicologia ci sono nel mentalismo? Io paragono la triade di elementi che costituiscono il mio mentalismo, che sono illusionismo, tecniche di comunicazione e psicologia, che ai tre colori primari che userebbe un pittore per poter creare qualsiasi tipo di tinta. Il gioco è proprio quello di riuscire, mescolando questi tre ingredienti, a confondere la percezione della realtà delle persone. Però io voglio capire, ci saranno delle tecniche per capire e carpire gli indizi che le persone ti danno? Sì, ogni pensiero è condizionato dalla propria mappa mentale. Se si riesce in qualche modo a decodificare quella che è la mappa mentale di una persona, si può intuire, prevedere quali sono le scelte che una persona andrà a fare. Ma per dire, se tu mi chiedi qual è il tuo colore preferito, io rispondo nero, è indicativo di qualcosa? No, non è indicativo di qualcosa. Probabilmente se ti piace il colore nero, lo manifesterai al di là del linguaggio verbale, nei vestiti che indossi, piuttosto che negli accessori. Sai, Paul Watzlawick diceva è impossibile non comunicare. Noi comunichiamo in tanti modi, al di là di quello che diciamo. Lie to Me, quella bellissima serie che abbiamo visto su Sky. Lui, certo, leggeva i segnali sul volto delle persone. Tu stai attento a questi segnali? Oppure no? Sono una risorsa importante per il mentalismo. Io ho studiato Paul Ekman, che è l'esperto di microespressioni facciali, su cui si sono basati gli stessi autori di Lie to Me, e io stesso a teatro faccio proprio una specie di gioco delle bugie e della verità. Gioco con le persone scelte a caso nella platea. Quando qualcuno mi chiede c'è un trucco, io faccio fatica a crederci. Allora, quello che io posso dire è garantire, non ci sono accordi. Ti sei buttato alla ricerca della mente delle persone perché ami profondamente l'essere umano e l'animo umano, o perché non ti fidi, allora volevi stanarlo in tutte le sue angolature? Quello che mi ha davvero spinto credo che sia il piacere di emozionare le persone, perché credo che l'emozione sia una benzina che poi ci spinge a fare cose. C'è un filosofo che ha scritto l'uomo prima si emoziona e poi si muove, e mi piace sperare e pensare che il pubblico che viene a vedermi uscirà da teatro con un'emozione che poi si trasformerà nella voglia di esplorare, di scoprire meglio quelle trappole mentali che ci influenzano un po' nella nostra vita quotidiana. Grazie. Grazie a te. Ecco, alla vigilia invernale di Sochi, oggi la storia a cura di Marina Milone ripercorrerà la sfida tra sport e politica sullo sfondo delle vicende più importanti del XX secolo, 50 anni di Olimpiadi.